Benvenuti a Dedicato, benvenuti. Allora, oggi siamo con un amico, un compagno di una vita, perché siamo nati insieme a XM24, quindi veramente compagno di vita, che è Claudio Metallo. Ciao Claudio! Ciao, ciao a tutte e a tutti, grazie per l'invito. Grazie a te di essere con noi e sei con noi per tanti buoni motivi, quindi adesso raccontiamo un attimo perché sei qua, no? Allora, noi siamo, come dicevo, nati insieme a XM. XM erano veramente momenti meravigliosi di cultura e creatività. Eravamo un po' più giovani, ma neanche tanto, devo dire, e quindi... Ma io sono ancora giovanissimo. No, infatti, pure io, per quello dico neanche tanto, insomma, ce la giochiamo bene. E quindi siamo cresciuti lì in quali contesti? In contesti sicuramente sociopolitici, che però con la cultura avevano molto a che fare, perché nel caso tuo specifico parliamo di Teleimmagini, che era la nostra telestreet, era la TV di XM24, che è nata lì dentro e cresciuta lì dentro anche lei, con varie personaggi che ci giravano intorno, tra cui uno fisso eri tu. Quindi hai iniziato un tuo percorso in maniera un po' trasversale, ecco, non facendo la solita routine che fanno con il tuo mestiere, che il tuo mestiere è lo scrittore, che è una figata pazzesca, ma al di là di questo lo sai fare anche molto bene, quindi noi di XM ci rivendichiamo la tua presenza, perché diciamo, cacchio, Claudio... Vabbè, possiamo chiuderla qua la trasmissione dopo tutta questa cosa, questo elogio, grazie. No, ma non è un elogio, non è perché sei mio amico che dico queste cose, è perché veramente sono robe che vanno raccontate, se no non saremmo in radio a raccontarle, ma al bar a chiacchierare tu e io, no? Allora, adesso io ti lancio un po' la palla, perché abbiamo detto scrittore, abbiamo detto che sei cresciuto in XM, ma poi dopo la strada è stata lunga e tortuosa e sicuramente hai tanto da raccontare sui tuoi libri e sul tuo percorso, quindi raccontaci un po' intanto com'è nata questo discorso sulla scrittura, cioè perché scrivi e invece non fai altro. E poi, insomma, com'è andata la tua strada? Perché poi ci sono tanti ragazzi che ci ascoltano, questa è una trasmissione per giovani, loro magari sono anche interessati a capire qual è il percorso, no? Per arrivare a pubblicare dei libri, a scrivere cose interessanti e non banali come il 50-60% che si trova in libreria. Quindi raccontaci un po'. Allora, guarda, intanto io sì, chiaramente la mia esperienza nasce appunto dai centri sociali, in particolare da XM24, io mi sono trasferito a Bologna per studiare, insomma, qualche annetto fa, era il 99, e poi mi sono ritrovato, diciamo, salto vari passaggi per farla breve, mi sono ritrovato appunto con tante altre compagne e compagni a Teleimmagini, che era appunto la televisione di strada interna, diciamo, di XM24, e di fatto io ho sempre avuto la passione per il cinema, per i documentari. Dentro XM noi avevamo anche un altro collettivo che si chiamava La Talpa, con cui facevamo le rassegne di film un po' particolari che non si trovavano tantissimo all'epoca ovviamente non c'era questa diffusione di internet così ampia come adesso, quindi trovare magari un film che veniva dalla Corea, dal Giappone, era un pochino più complicato, no? Quindi queste rassegne avevano anche più senso, no? Diciamo, io appunto in Teleimmagini ho trovato un gruppo di persone con cui mi sono potuto relazionare e con cui abbiamo condiviso di fatto tutto quello che potevamo condividere, diciamo, da pranzi, cene, birrette e soprattutto ovviamente conoscenze, ma anche tecnologie, perché all'epoca appunto, ad esempio, alcuni programmi di montaggio su alcuni PC si piantavano, che era una bellezza, no? Mentre adesso ormai puoi montare tranquillamente qualsiasi cosa su un computer da 300 euro, all'epoca non era così, quindi era importante sia condividere, diciamo, le conoscenze, come dicono alcuni, no? Condividere i saperi, ma era importante anche condividere le attrezzature che, insomma, ognuno di noi poteva, in quel periodo, insomma, da studenti, lavoratori, potevamo permetterci. E diciamo, e da lì io ho imparato a fare questo mestiere, appunto, di documentarista, di videomaker. Alcuni lo chiamano di filmmaker, vabbè, ma non ci addentriamo in tutta questa vicenda. Poi c'è da lavorare per varie testate, insomma, tra cui ho lavorato, penso, per Al Jazeera, per la Rai, subito dopo la laurea, per varie case di produzione. E poi ho cominciato a fare anche dei documentari miei, tra cui ad esempio Fratelli di Tav, che è una mappatura degli effetti collaterali dell'alta velocità dalla Val di Susa fino ad Afragola, in provincia di Napoli, che ho girato con Manolo Luppichini. Poi ho girato ad esempio Un Pagamo, che è un documentario su come i commercianti di Lamezia Terme, che è la terza città della Calabria, si sono ribellati al pizzo e hanno, diciamo, vinto almeno una battaglia che ho girato con Mico Meloni e Nicola Grignani, un documentario sulla questione delle navi dei veleni, quindi sugli affondamenti di rifiuti al largo del Mar Mediterraneo, che si chiama L'avvelenata cronaca di una deriva. Sono tutti lavori che trovate tranquillamente in rete, su Vimeo, su Archive, eccetera, eccetera. Ok, io ti E interrompo lì. e devo dire che assolutamente dovete vederli perché sono eccezionali, ovviamente, io li ho visti tutti e sono lavori veramente che vanno nel profondo, no? Hanno approfondito una serie di tematiche importanti, queste tre che tu hai detto, che non sono state affrontate in questa maniera in nessun altro documentario, dal mio punto di vista. Quindi, grande, vedeteli, vedeteli. Ok, scusa, In puoi realtà andare sì, in avanti. parte, no, figurati, in parte sì, nel senso che poi non esistono lavori specifici, ad esempio sulla questione del pizzo non esistono lavori così specifici, che siano documentari, no? Al di là delle inchieste giornalistiche dure e pure, diciamo, no? Quelle che vediamo magari in televisione. Però diciamo, da questo percorso, io come documentarista ho sempre cercato di lasciare da parte tutta diciamo, l'emotività creativa che puoi avere quando fai un lavoro del genere, no? Cioè, l'importante era sempre far parlare le persone che di fatto, come diceva Vittorio De Seta, sono portatori inconsapevoli di cultura. Cioè, era importante dare spazio a chi veniva intervistato e non alla tua voglia di creare il tuo documentario artistico, per quanto ovviamente è una cosa assolutamente legittima, questa è quello che penso io ed è come ho fatto il mio lavoro, insomma. Perché ti capitava di raccontare delle storie, ti faccio due esempi rapidi. Ad esempio, quando abbiamo girato Fratelli di Tav, abbiamo intervistato Pietro Mirabelli, che era un miratore che lavorava sulla tratta del Mugello, che è stata insomma la galleria più lunga d'Europa, e lui ci ha raccontato, ci ha aperto casa sua. Lui era di Pagliarelle, che è una frazione di Petilia Policastro in provincia di Crotone, e da Pagliarelle partivano oltre 100 persone a lavorare su quella tratta, sulla tratta del Mugello per costruire quella galleria, tutti minatori, quindi immagino di figli, padri, cugini, nipoti, eccetera, eccetera. E loro hanno cominciato una battaglia dopo la morte di Pasqualino Costanzo, che era un ragazzo di 23 anni, proprio su quella galleria. E Pietro, insomma, appunto, ci ha aperto casa sua, ci ha dato la possibilità di intervistare altri minatori, insomma, col fatto che lui era uno dei personaggi carismatici, no? Di quella situazione. E purtroppo quella là è stata l'ultima intervista che lui ha rilasciato, perché poi è morto su una galleria, purtroppo, in Svizzera. Poi mi è Mannaggia. capitato di intervistare per un pagamo la tassa sulla paura il primo commerciante di Lamezia Terme che ha denunciato i suoi estorsori in tribunale. Quella era la prima intervista che lui faceva, non aveva mai voluto fare con nessuno. Diciamo, con lui si è creato un'empatia di un certo tipo, che è poi è la parte più bella di questo lavoro, no? Cioè parlare con le persone, riuscire a creare un rapporto e conoscere persone nuove che spesso non ci riesce ad arrivare, no? A conoscerle, magari le conosci in maniera superficiale, non così diretta. E lui appunto mi ha concesso la prima intervista per questo documentario, dopodiché abbiamo girato in varie parti d'Italia per fare le presentazioni dei documentari, e lui, nonostante avesse la scorta, insomma, da quel momento in poi si è sciolto, e ha cominciato anche a fare delle cose per i fatti suoi, no? Cioè a fare attività politica legata sempre alla sua situazione per conto suo, diciamo. Quando ti trovi di fronte a storie del genere, chiaramente appunto sacrifichi, cioè almeno io, sacrifichi completamente qualsiasi velleità artistica, che però comunque c'hai dentro, no? E la cioè, avvicinarmi alla scrittura è stata la maniera per farla esplodere questa cosa. E cominciare a raccontare tutta una serie di aspetti che attraverso il lavoro di documentarista o non vuoi raccontare, come ho spiegato il motivo, oppure in alcuni casi non puoi raccontare perché ci sono motivi legali, ci sono motivi che riguardano la costruzione della storia, ci sono motivi che riguardano le persone che devi intervistare, dove vogliono arrivare, fino a che punto ti vogliono raccontare. Ci sono cose che fai fatica anche a dimostrare, no? Cioè ad avere un appoggio e dire ok, questa situazione è andata così, però purtroppo non riesco a raccontarla perché non trovo l'appiglio per poter raccontare questa vicenda. Con la scrittura, in qualche maniera, si è creato un cordone ombelicale con il resto del lavoro che ho fatto con i documentari. Cioè, mi riesco a sbizzarrire molto di più insomma, e a sfamare pure un po' la creatività che c'ho dentro. Insomma, poi tu sai che io faccio un sacco di cose che non ci riesco a stare fermo. Sì, Ti effettivamente. placo un attimo, se no ti parlo 2 ore. Esatto. No, no, ma tu puoi parlare tutto il tempo che vuoi, figurati. Però adesso facciamo uno stacco musicale, in realtà, E mandiamo un brano che ci consigli tu, perché all'interno del tuo ultimo libro ci sono anche inseriti appunto brani musicali per vari motivi che non stiamo a raccontare perché poi lo leggeremo. E quindi brano musicale di Claudio Metallo, cioè scelto da Claudio Metallo. Eccoci tornati in studio dopo questo meraviglioso brano scelto da te, Claudio, che insomma, bellissimo. Eh sì, ma dico, è uno dei miei pezzi preferiti in generale nella vita, in questo momento in particolare. Everything is Coming Our Way di Santana è Grande, un pezzone infatti. assoluto, che sta nell'ultimo libro che uscirà, che è uscito, anzi, scusami, il 25 di novembre. Ah, E quindi lo ok, trovo. ottimo. Parleremo di questo libro perché adesso io ti volevo fare una domanda un po' più ampia sui tuoi libri, perché quello che esce adesso sicuramente non è il primo, anche perché mi posso rivendicare che il primo l'ha edito la casa editrice Agenda, che è la mia casa editrice, e l'abbiamo Esatto. fatto insieme. È stato un po' un parto perché era un piccolo libro, ma con tanto cuore in quegli anni lì, poi non era neanche facile avere a che fare con le case editrici, era tutto un po' complicato. Non Quindi neanche adesso. sì, beh, certo, però Saluto la mia casa editrice se mi stanno ascoltando, ma no, ma non è la difficoltà non era quella, la difficoltà era che noi eravamo giovani e non sapevamo bene come muoverci e organizzarci. Poi dopo adesso, insomma, con l'esperienza e tutto il lavoro che hai fatto in questi anni, sicuramente il rapporto con la casa editrice è più semplice, ecco, è anche più chiaro che cosa bisogna fare. Invece quello era il tuo primo libro. certo. Quindi, dopo quel libro, che cosa è successo? Hai scritto un sacco, io lo so, la maggioranza dei tuoi libri li ho letti, quindi insomma, inutile che faccia finta di non saperlo. Però raccontacelo un po', no? Questo tuo percorso da scrittore proprio. Appunto, ho avuto la fortuna di incontrarti, è vero? Tu mi hai pubblicato insomma questo primo racconto lungo che era Costa del Re FC Football Clan. Poi, dopodiché, ho vinto un concorso letterario che si chiamava Luci a Sud-Est, che era indetto da una casa editrice pugliese che è Pietre Vive Edizioni, con un piccolo racconto che si chiamava Il Sindaco. Appunto, lo potete trovare anche questo in rete, insomma, ma non sto qua a dilungarmi su trama, eccetera, eccetera. Poi ho vinto un altro concorso con un racconto che si chiamava Neomelò, su un melodico napoletano. E mentre stavo in questa fase, diciamo, sono riuscito a trovare un editore, che era Casa Sirio Editore, appunto, che ha pubblicato il mio primo romanzo, che era Come una foglia al vento, Cocaine Bugs, che diciamo è la storia del primo broker internazionale della cocaina, cioè una storia ovviamente di fiction. Ed è stato il mio primo libro che è uscito nel 2000, il mio primo romanzo, insomma, che è uscito nel 2014. Per fortuna è andato bene, ha avuto pure delle buone recensioni, tra cui insomma sia una di Pino Cacucci che una del compiantissimo Valerio Evangelisti. E poi, diciamo, da questo libro ne ho pubblicato un altro, sempre con lo stesso editore, che era Vangelo di Malavita, Poi ne ho pubblicato un altro che era Tutti sono un numero, sempre con Casasirio. È una raccolta di racconti che si chiama Come andare meglio che fottere. Per fortuna, diciamo, questi libri sono andati abbastanza bene. Tutti quanti, appunto, hanno avuto delle buone recensioni, hanno avuto delle buone vendite. E poi sono passato, diciamo, a un altro editore che è Marotta e Cafiero, che è l'editore, un editore di Scampia, quindi di Napoli, che pubblica, insomma, vari autori tra cui Soriano, Stephen King, Pennacchi, insomma, nel mio piccolo pure io. E beh, nel tuo Sono piccolo. riuscito. Insomma, mi viene da Sì, dire era. che se i libri sono andati bene, le recensioni erano buone, le vendite anche, ci sarà un motivo, insomma, perché sai, un libro di un autore ne leggi uno, se poi non ti piace, il secondo non lo prendi. Quindi se tutti i tuoi libri sono andati bene, un motivo ci sarà. Mi viene da fare un 2 più 2 e alla fine 4 vuol dire Claudio è bravo a scrivere. Quindi ecco. Non me lo posso dire da solo. Te l'ho detto io, No, infatti, te l'ho detto io e basta. però sono andati bene, diciamo, sono andati bene appunto grazie anche alle recensioni, al fatto che per esempio ci ho avuto pure buone, ad esempio l'ultimo romanzo, questo che è uscito prima di quello che è uscito insomma a novembre di quest'anno, che si chiama Kamikaze Blues Explosion, per esempio ha avuto, diciamo, uno strillo in copertina di Antonio Manzini, insomma, che è l'autore di Rocco Schiavone, insomma, che edito da Sellerio, insomma, Sì, il che nostro Antonio mi ha dato pure Manzini una bella spinta, ce l'abbiamo diciamo. nel cuore, infatti è appena uscito anche il suo ultimo libro, quindi ce l'abbiamo sempre nel cuore Manzini noi e infatti te lo meriti. Ti dirò che così dietro le quinte varie persone a cui ho consigliato il tuo libro e gliel'ho regalato a Natale dell'anno scorso mi hanno detto ma la critica di Manzini, cioè sembrava fosse la cosa più importante del libro. Poi dopo l'hanno letto e hanno detto ah cacchio, è bravo, cioè Manzini ha scritto per un motivo, quindi ho detto sì, è bravo davvero, perché sai quando proponi il Non libro, cioè è il tipo che si fa corrompere, capito? no, no, ma poi quando proponi il libro di un amico, dici, leggi questo è il mio amico, dici, vabbè, sì, è come se gli dici, va, leggi il libro del mio vicino di casa, che è così, tanto per farlo contento. E Ti devo dire la invece, verità che no, invece, sono tutte una critiche buone. delle recensioni più belle che ci ho avuto in realtà è stato quando è uscito il mio primo libro. L'ha comprato, ovviamente, l'hanno comprato varie persone, vari amici, tra cui questo mio amico, che poi ci siamo rivisti qualche mese dopo, e poi mi fa: Claudio, ti dico la verità, il libro l'ho comprato solo perché eri tu. Poi l'ho letto e mi che è bello! così a me è successa la stessa cosa. L'ho comprato, cioè l'ho letto solo perché me l'hai regalato tu, era di un tuo amico. Poi però è bello, stessa cosa, mi è successa con ben due persone. Comunque quando arrivano poi le soddisfazioni anche di questo tipo, cioè, insomma, il percorso inizia a avere un senso anche, no? Quindi io farei così, mandiamo un altro brano musicale, sempre scelto da te. E poi parliamo di questo nuovo libro appena uscito, freschissimo proprio di stampa. Disgrace as she slams the door in his drunken face. And now he stands outside, and all the neighbors stop and gossip and drool. He cries, oh girl, you must be mad. What happened to the sweet love that you and me had? Against the door he leans and starts to see, and his tears fall and burn in a garden green. And so castles made of sand fall in the sea eventually. A little Indian baby before he was 10 played wardens in the woods with his Indian friends. And he built a dream that when he grew up he would be a fierce warrior Indian chief. Many moons passed, the more the dream grew strong, until the morning he would sing his first word song. Fight his first battle, but something went wrong. Surprise attack killed him in his sleep that night. And so castles made of sand melts in the sea eventually. Thank you. Castle Made of Sand di Jimi Hendrix, grande brano anche questo, Claudio, grazie della scelta musicale. Allora, siamo tornati, dopo questo brano parliamo del tuo libro appena uscito. Dacci un titolo, un'idea, insomma, dici un po' qualcosa senza spoilerare ovviamente, perché lo leggeranno, lo leggeremo, quindi insomma, vai, raccontaci. Allora, il libro si chiama Calypso Hotel No Vacancy, appunto edito da Marotta e Cafiero Editori, ed è sostanzialmente questa, è la storia di questo hotel, che appunto è il Calypso, che è un vecchio albergo, che è un oscuro costruttore, che si chiama, viene chiamato Dave lo Sciccoso, vuole demolire per farci un eco resort, diciamo. È il proprietario del Calypso, Pino detto Amandalir, è disperato. E insomma gli viene in aiuto questo bluesman ex pugile chitarrista che si chiama Peppe Nastro, che è stato abbandonato dalla sua band proprio nel Calypso Hotel, perché purtroppo durante i concerti, ma pure prima e dopo, beve e si droga troppo. Sostanzialmente questo è l'incipit, diciamo, del romanzo. Lui spera che in realtà la sua band, che è la Boom Boom United, che in realtà è la sua band da poco tempo, perché in realtà è la band della cantante con cui lui ha avuto una piccola liaison, che si chiama Esteia Martinez, lui spera che lo vengano a recuperare, perché in realtà la band è in tour su quest'isola del Mediterraneo dove c'è il Calypso Hotel, e quindi spera che prima o poi lo vengano a prendere. In realtà poi si trova in mezzo a questa storia tra il proprietario del Calypso Hotel e questo costruttore, appunto, che vuole demolire, comprare l'hotel e demolirlo, insomma, per farci questo eco resort. Diciamo che è un romanzo che parla di speculazione edilizia, di fanfatale, di alcol, di blues, di scagnozzi che menano le mani, e appunto, e poi essendo un noir scritto tutto in prima persona è abbastanza rapido, con una serie di battute a schiaffo, no? Cioè con batti e ribatti continuo. È molto ironico, come questo me lo posso dire da solo, diciamo, è molto ironico come quasi tutti i romanzi che ho scritto, perché al di là del fatto che appunto magari Cocaine Bugs, che è il primo, parla del broker internazionale della cocaina, Vangelo di Malavita di fatto parla di questi due ragazzi, di cui uno viene dalla borghesia mafiosa, diciamo, e l'altro dal proletariato mafioso, quello che insomma spara, chiede il pizzo, eccetera. Quindi sono temi di un certo tipo. Tutti sono un numero alla storia di un mago televisivo che vuole diventare uno speculatore edilizio a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80 in Campania. Quindi sono temi a cui tengo, ma sono temi pure, come potete immaginare, duri, no? Certo. Però cerco sempre di trattarli con una certa ironia, per vari motivi. Uno, perché proprio penso sia la cifra stilistica giusta per raccontare alcune storie, almeno per me, ovviamente, no? Per la mia indole, per il mio carattere, eccetera. E due, anche perché ci sono tutta una serie di personaggi che è anche divertente sminuire, no? Diciamo che io mi rifaccio sempre una battuta di un film di Fernando Di Leo, che è I padroni della città, che è uno dei minori, dove ci sta questi due, diciamo, sfigati di fatto del crimine organizzato o pseudo-organizzato, che vogliono truffare un grosso criminale, dormono a casa di questo signore che faceva gli scippi, che nel film è interpretato da Vittorio Caprioli, insomma, il grande attore napoletano. Lui è spaventatissimo da questa truffa che vogliono fare, e uno dei due gli risponde: sì, vabbè, ma l'americano sarà pure un grande, però un uomo è sempre un uomo, è sempre più fesso di come te lo immagini. E beh, diciamo, da questo punto di partenza poi nasce la maniera in cui cerco di raccontare i personaggi e le storie, pur essendo magari storie complicate. Appunto, Calypso Hotel, questo qui è un romanzo come quello precedente, che si chiamava Kamikaze Blues Explosion, che in realtà tratta di emigrazione, di razzismo, di emarginazione. Anche lì c'è un romanzo in cui sì, ti può scendere la lacrimuccia, però sostanzialmente ridi. Sì. Per quasi tutte le pagine del romanzo, insomma, lo è confermo, lo stesso lavoro che ho cercato di fare con Calypso Hotel. Lo confermo, perché Kamikaze l'ho letto, quindi so di cosa parliamo, è veramente bellissimo. Poi è godibilissimo il fatto che questa ironia, questa simpatia sia appunto correlata a delle storie pesanti, pese davvero, che riescono ad arrivare in questo modo, riescono ad arrivare chiarissime, no? Anche a chi magari non ci vuole pensare o non ci ha mai guardato al di là del proprio naso, e quindi no, è veramente un modo di comunicare, secondo me, è bellissimo. Poi vabbè, appunto, io conoscendoti sono avvantaggiata perché la tua Sei di ironia, parte. no, ma conosco la tua ironia, quindi sicuramente mi arriva, no, in un certo modo, ma vedo che è arrivata un po' a tutti, quindi anche questo nuovo lavoro, insomma, Calypso Hotel, direi che sarà uno dei regali di Natale, assolutamente, quindi tanto i regali a Natale bisogna farli, meglio farli intelligenti piuttosto che Esatto. consumisti. Allora, Claudio, io direi che purtroppo il nostro tempo si è esaurito. A questo punto ci salutiamo, dandoci però un attimo una linea, nel senso che sicuramente tu avrai delle presentazioni di questo libro a breve, adesso non abbiamo ancora le Sì. date, però quando le hai me le mandi così le diciamo anche ai nostri ascoltatori e nelle prossime puntate gli facciamo sapere se ci sono degli appuntamenti, soprattutto in Emilia-Romagna. Perché comunque Ma Radio sì, Città sicuramente Fisico è qua. Bologna, insomma, e dintorni vengo assolutamente volentieri. Non avevo dubbi, infatti, ecco. E quindi ci rivediamo dal vivo, poi magari in quell'occasione ci riaggiorniamo, insomma, ci racconti un po' come sta andando il libro e tutto quanto, insomma. Ok, Volentieri. allora noi intanto ti salutiamo, ti mando un abbraccio enorme, spero di vederti prestissimo. Anche io a te. E in bocca al lupo per questo Calypso Hotel in uscita freschissimo. Un abbraccio grande. Viva il lupo! Viva il Dai, un lupo. saluto a tutte e tutti! Ciao Claudio. E quindi ci sentiamo la settimana prossima, sempre mercoledì alle 13 su Radio Città Fujiko con Dedicato, ma non ci salutiamo definitivamente finché non abbiamo ascoltato il fantastico jingle per la campagna abbonamenti a Radio Città Fujiko. Mi raccomando ragazzi, aderite, aderite, aderite perché è veramente un'idea molto carina quella di quest'anno. Ciao! Abbiamo 50 anni, portati con rispetto, se ti abbonerai la radio guadagni. Era un fumetto che racconta un po' di storie, non certo ordinarie, di città Fujiko, una radio comunitaria. Scopri come abbonarti su www.radiocittafushiko.it/abbonamenti.